Tanti sono quei giorni passati assieme, bagnati dalla pioggia o scaldati dal sole. Tanta era quella voglia di essere folli per costruire qualcosa di diverso. Camminare verso l'orizzonte senza mai avvicinarsi né raggiungerlo. Essere l'inizio come il giano bifronte, sempre senza sapere come. Noi con questi nostri eroi coraggiosi, noi coraggiosi a distanza di sicurezza, noi sempre gli stessi, sempre diversi, noi forse poetici ma senza bellezza. Tante parole non c'eravano, pensiero in quelle date si contavano i caduti, per altra indolo, per la tasca del vero, a decidere se alzarsi o se restare seduti. E tra gioia e rivoluzione, in nottate passate, a farci capire, non per convincere ma con convinzione, delle nostre idee, delle nostre speranze. E noi, nel silenzio del casino, noi a parlare con chi. Ascoltare con un po' di vino, noi vecchi a soli 20 anni. C'era chi voleva lasciare tutto e andare, chi qua voleva cambiare le cose, chi forse voleva ma non riusciva, chi ancora confuso rimaneva muto. E quei giorni passavano veloci, tra libri, sborni e cazzate, con la speranza di non perdere tutto quello che eravamo diventati. Noi tra quelle strade non asfaltate, noi a guardarci senza dover parlare, con le risate a volte abusate, non dici ma sempre a casa.